Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario di Mina Hacker. 25 settembre. Più si avvicina il momento della visita del dottor Van Helsing, più mi sento eccitata, perché mi aspetto che possa in qualche modo gettare una certa luce sulla dolorosa esperienza di Jonathan. E poiché egli ha assistito la povera cara Lucy nella sua ultima malattia, mi potrà raccontare tutto di lei. Ma è questo il motivo della sua venuta. Riguarda Lucy e il suo sonnambulismo. E Jonathan non c'entra affatto. Quindi non verrò mai a sapere la verità. Come sono sciocca. Quell'orribile diario domina la mia immaginazione e colora ogni cosa delle sue fosche tinte. Naturalmente si tratta di Lucy. La povera cara deve essere stata ripresa dalla sua abitudine e quella spaventosa notte sulla scogliera deve averla fatta ammalare. Tutta presa dalle mie preoccupazioni, avevo quasi dimenticato quanto fosse stata male dopo. Lucy deve avergli parlato della sua avventura di sonnambula sulla scogliera, dicendogli che io sapevo tutto. E ora, egli desidera che io gli spieghi la faccenda in maniera di poter capire. Io spero di avere fatto bene a non rivelare niente alla signora Vesterra. Non mi perdonerei mai se il mio modo di agire, anche una semplice omissione, avesse in qualche modo danneggiato la povera cara Lucy. Spero anche che il dottor Van Helsing non mi rimproveri. Negli ultimi tempi ho avuto così tante agitazioni e ansie che non ne potrei tollerare altre in questo momento. Ogni tanto penso, piangere fa bene a tutti. Schiarisce l'aria come fa la pioggia. Forse è stata la lettura del diario di Jonathan a sconvolgermi ieri. E il fatto che lui sia partito questa mattina per stare lontano da me un giorno e una notte interi, la nostra prima separazione dopo il matrimonio. Spero che il mio caro si riguardi e che nulla venga a turbare il suo equilibrio. Al dottore non dirò niente del diario di Jonathan, a meno che non sia lui a chiederlo. Sono contenta di avere battuto a macchina il mio diario, così se Van Helsing mi interrogerà su Lucy, glielo potrò fare leggere. Questo risparmierà molte domande. Più tardi. Egli è venuto e ripartito. Che strano incontro, e come mi sento girare la testa. Mi pare di essere in un sogno. Ma è possibile tutto questo? O almeno una parte di questo? Se non avessi letto in precedenza il diario di Jonathan, non ne avrei accettato nemmeno una remota possibilità. Povero, povero caro Jonathan. Quanto deve avere sofferto. Voglia Dio che questo non lo sconvolga di nuovo. Io cercherò di risparmiarlo in tutti i modi, ma per lui potrebbe essere una consolazione, un aiuto, per quanto atroci, spaventose siano le conseguenze, il sapere con certezza che i suoi occhi, le sue orecchie e il suo cervello non l'hanno ingannato, e che è tutto vero. Può darsi che sia il dubbio a ossessionarlo, e che una volta eliminato il dubbio, egli si senta più tranquillo e sia più capace di sopportare il trauma, qualunque si riveli essere la verità, se fosse sveglio o sognasse. Il dottor Van Helsing deve essere un uomo buono e intelligente, se è un amico di Arthur e del dottor Seward, e se essi l'hanno fatto venire fin dall'Olanda per prendersi cura di Lucy. E avendolo incontrato, sento che è buono e gentile, e ha un carattere nobile. Domani, quando verrà, gli parlerò di Jonathan, e allora, a Dio piacendo, tutte queste sofferenze e queste angosce potrebbero forse avere una buona soluzione. Ho sempre desiderato di fare delle interviste, e un amico di Jonathan, dell'Exeter News, gli ha detto che in questo lavoro è essenziale la memoria. Bisogna essere in grado di riportare esattamente quasi ogni parola pronunziata, anche se in seguito occorrerà qualche correzione. E questa è stata un'intervista delle più rare. Cercherò di trascriverla tutta verbatim. Erano le 2:30 del pomeriggio quando ho sentito bussare. Ho aspettato raccogliendo tutto il mio coraggio. Pochi minuti dopo Mary ha aperto la porta annunziandomi il dottor Van Helsing. Mi sono alzata a fargli una riverenza ed egli mi è venuto incontro. Un uomo di media statura e di corporatura robusta. Le spalle diritte su un torace ampio. Il collo ben piantato a reggere una testa proporzionata, una testa che colpisce subito perché indica equilibrio, pensiero e forza. Una testa nobile, armoniosa, grande e ben sviluppata sulla nuca. Il viso, rasato con cura, mostra un mento deciso e quadrato, una bocca larga, mobile e risoluta. Un naso di giusta misura, piuttosto diritto, ma con narici sensibili e vive che sembrano allargarsi quando le grosse sopracciglia cespugliose si abbassano e la bocca si indurisce. La fronte, bella e ampia, sale quasi diritta, ma poi si curva sul capo in 2 bozze prominenti e molto distanziate. I capelli rossicci non possono ricadere su una fronte di questa forma e si piegano naturalmente all'indietro e sui lati. I grandi occhi, di un azzurro intenso, sono alquanto discosti e secondo il suo amore assumono un'espressione vivace, tenera o rigida. Egli mi ha domandato: «La signora Harker, vero?» Gli ho fatto un cenno di assenso. «La signorina Mina Murray, prima?» O ha sentito di nuovo. «Io sono venuto qui a trovare Mina Murray, che era amica di quella cara povera bambina Lucy Westenra. Madame Mina, io vengo per conto di morta.» «Signore», gli ho risposto, «voi non potreste avere ai miei occhi un merito maggiore di quello di essere stato un amico, un soccorritore di Lucy Westenra.» E gli ho teso la mano. Stringendomela, il dottor Van Helsing ha detto con dolcezza: «Madame Mina, io sapevo che l'amica di quella povera fanciulla Lily Allen doveva essere buona, ma dovevo ancora apprenderlo.» E qui si è interrotto con un piccolo inchino. Gli ho chiesto che cosa desiderasse da me ed egli ha cominciato subito: «Ho letto vostre lettere a signorina Lucy. Scusatemi, ma io dovevo iniziare indagini da qualche parte e non c'era nessuno da domandare. Io so che voi eravate con lei a Whitby. Lei qualche volta teneva un diario. Non è bisogno di stupirvi, Madame Mina. È stato cominciato dopo vostra partenza e per imitare voi. E in questo diario essa porta per deduzione certe cose. Ha una crisi di sonnambulismo in cui scrive: voi avete salvato lei. In grande perplessità io allora vengo da voi e chiedo che per vostra grande gentilezza mi dite tutto quello che potete ricordare.» «Io credo, dottor Van Helsing, di potervi dire tutto sull'episodio.» «Ah, dunque voi avete buona memoria per fatti, per particolari. Non sempre è così con giovani, signore.» «No, dottor Van Helsing, ma in quel periodo io ho annotato tutto e posso mostrarvi il mio diario, se lo desiderate.» «Oh, madammina, io sarei molto grato a voi. Voi mi fareste grande favore.» «Perdonatemi», gli ho detto. «Non sono riuscito a farne a meno. Ma immaginando che mi avreste voluta interrogare sulla cara Lucy e non volendo farvi aspettare, non per me, ma so che il vostro tempo deve essere prezioso, l'ho copiato a macchina per voi.» Il dottor Van Helsing lo ha preso con gli occhi brillanti di gioia. «Voi siete tanto buona», ha detto. «E posso leggerlo adesso? Forse ho bisogno di chiedere a voi qualche cosa dopo che ho letto.» «Ma certamente. Leggete pure mentre io ordino il pranzo. Potrete poi farmi le vostre domande durante il pasto.» Dopo un inchino, egli si è accomodato su una poltrona dando le spalle alla luce e si è immerso nelle mie carte mentre io andavo a provvedere al pranzo, più che altro un pretesto per lasciarlo tranquillo. Al mio ritorno, l'ho trovato che percorreva a gran passi la sala, avanti e indietro, il volto acceso per l'eccitazione. È corso verso di me e mi ha stretto entrambe le mani. «Oh, Madame Mina!» ha esclamato. «Come posso io dire quello che devo a voi? Questo documento è un raggio di sole e apre a me tutte le porte. Sono stordito, sono abbagliato di tanta luce, eppure nuvole sempre corrono su luce. Ma questo voi non comprendete, non potete comprendere. Oh, ma io sono a voi, tanto grato, voi, tanto intelligente donna». Poi ha aggiunto in tono molto solenne: «Signora, se mai Abraham Van Helsing può fare qualcosa per voi o vostri cari, io spero che voi lo fate sapere a me. Sarà piacere e felicità per me se posso servire voi come amico. Come amico, perché tutto quello che ho imparato, tutto quello che posso fare, sarà per voi e per quelli che voi amate. Sono tenebre e luci nella vita, e voi siete una luce. Avrete vita felice e buona vita, e vostro marito avrà benedizione in voi». «Ma, dottore, voi mi elogiate troppo. Non mi conoscete. Io non conosco voi. Io che sono vecchio e in tutta mia vita ho studiato uomini e donne, io che di cervello e di tutto ciò che lui appartiene e da lui deriva, ho fatto mia specialità e ho letto vostro diario che voi tanto gentile avete copiato per me e che respira verità in ogni riga. Io che ho letto vostre così tenere lettere a povera Lucy, vostro matrimonio e vostra fiducia, io non conosco voi? Oh, Madame Mina, donne buone dicono tutta la loro vita, giorno per giorno, e ora per ora, e minuto per minuto, cose che angeli possono leggere. E noi, uomini, che vogliamo sapere, abbiamo in noi qualche cosa di occhi degli angeli. Vostro marito è nobile natura, e anche voi siete nobile, perché voi avete fiducia, e fiducia non può stare dove è carattere meschino. E vostro marito, dite a me di lui, sta bene adesso? È andata via tutta quella febbre, e lui forte e robusto? Ho visto in questo l'opportunità di parlargli di Jonathan, e ho detto: si era quasi completamente ristabilito, ma la morte del signor Hawkins lo ha molto turbato. Egli mi ha interrotta: «Oh sì, lo so, lo so. Ho letto le vostre due ultime lettere». Io ho proseguito: «Questo deve averlo sconvolto molto, suppongo, perché quando siamo stati a Londra, giovedì scorso, ha avuto una specie di shock». «Uno shock? E così presto dopo febbre cerebrale? Questo non buono. Quale tipo di shock è stato esso?» «Gli è parso di vedere un uomo che gli ricordava qualche cosa di terribile, qualche cosa che gli ha provocato la febbre cerebrale. A questo punto sono stata improvvisamente sopraffatta dall'emozione. La compassione per Jonathan, la sua atroce esperienza, l'intero spaventoso mistero del suo diario e la paura che da allora mi tormenta. Tutto questo è esploso tumultuosamente in me. Devo essere stata colta da una crisi isterica perché mi sono buttata in ginocchio e, sollevando le mani verso il dottore, l'ho supplicato di guarire mio marito». Diario del dottor Seward. Sospetto che Van Helsing creda di sapere come andrà a finire la faccenda, ma dice soltanto quel poco che basta a eccitare la curiosità. Ieri è stato a Exeter, dove ha passato anche la notte. Oggi è ritornato e intorno alle 5:30 è letteralmente piombato nella mia stanza e mi ha messo sotto gli occhi la Westminster Gazette. «Che cosa pensate voi di questo?» mi ha domandato facendo un passo indietro e incrociando le braccia. Io ho dato una scorsa al giornale senza capire che cosa alludesse. Allora lui lo ha ripreso per indicarmi un articoletto in cui si parlava di bambini adescati ad Hampstead. La notizia non mi diceva molto finché sono arrivato al punto in cui erano descritte certe minuscole ferite sulla gola dei bambini. Colpito da un'idea, ho alzato gli occhi su di lui. «Ebbene?» ha chiesto il professore. «Come quelle della povera Lucy. E che cosa deducete da questo?» «Semplicemente che ci deve essere una causa in comune, la cosa che ha ferito Lucy, qualunque fosse, ha ferito anche i bambini.» Ma la sua risposta io non l'ho capita. «Questo è vero indirettamente, ma non direttamente.» «Che cosa volete dire, professore?» Ero piuttosto propenso a prendere alla leggera la sua gravità, perché dopo tutto 4 giorni di riposo e di sollievo da un'ansia terribile e assillante contribuiscono a migliorare l'umore. Ma quando ho visto la sua faccia ho cambiato idea. Non aveva mai avuto un'espressione tanto severa, neppure nel pieno della nostra disperazione per Lucy. «Ditemelo!» ho esclamato. «Non oso esprimere un'opinione. Non so che cosa pensare, non ho un'idea su cui basare una congettura.» «Voi volete dire a me, amico John, che non avete sospetto su che cosa ha fatto morire Lucy? Nemmeno dopo tutti gli indizi dati, non solo dagli avvenimenti, ma anche da me?» «Lucy è morta di depressione nervosa in seguito a una grandissima perdita o consumo di sangue.» «E come sangue è stato perso o consumato?» Io ho scosso il capo. Van Helsing, facendo un passo avanti, è venuto a sedersi vicino a me e ha proseguito. «Voi siete uomo intelligente, amico John. Voi ragionate bene, vostra perspicacia è notevole, ma avete troppi pregiudizi. Non permettete ai vostri occhi di vedere né a vostre orecchie di sentire quello che è fuori di vostra vita quotidiana. Non è importante per voi. Non credete voi che esistono cose che voi non potete capire, eppure esistono, e che certe persone vedono cose che altri non possono vedere. Ma esistono cose vecchie e nuove che non devono essere contemplate da occhi di uomini, perché essi sanno o credono sapere certe cose che altri uomini a loro hanno detto. Oh, questo è difetto di nostra scienza, che vuole spiegare tutto. E se non spiega, allora essa dice: non c'è niente da spiegare. Ma pure noi vediamo tutti i giorni intorno a noi svilupparsi nuove credenze, che sono solo le vecchie che fingono di essere giovani, come le belle signore nell'opera. Voi conoscete tutto il mistero di vita e morte? Conoscete voi tutto di anatomia comparata e potete dire per quale ragione certi uomini hanno qualità di bruti e altri non hanno? Potete dirmi perché tanti ragni muoiono piccoli e presto, e invece quel grande ragno ha vissuto per secoli nella torre di vecchia chiesa spagnola e ha cresciuto finché poteva scendere e bere olio di tutte le lampade della chiesa? Potete dire a me perché nella Pampa e anche in altri luoghi sono pipistrelli che arrivano di notte e aprono vene di bestiame e cavalli e succhiano sangue di loro vene fino a che sono asciutte? E perché in certe isole di mari occidentali sono pipistrelli che stanno appesi a piante tutto il giorno, e quelli che li hanno visti dicono che sono come noci gigantesche o bozzoli, e poi quando i marinai dormono sul ponte perché fa caldo, volano giù su di loro e poi alla mattina essi sono stati trovati morti, bianchi, come era signorina Lucy?» «Buon Dio! Professore!» ho esclamato balzando in piedi. «Intendete forse dire che Lucy è stata mossa da un simile pipistrello e che questo è accaduto qui, a Londra, nel XIX secolo?» Con un cenno della mano, Van Helsing mi ha imposto il silenzio e ha continuato. «Potete dire a me perché tartaruga vive di più di generazioni di uomini? Perché elefante va avanti e avanti fino a vedere intere dinastie? E perché pappagallo non muore mai, ma solo se è morsicato da gatto o cane o altri guai? Potete dire a me perché uomini in tutti i tempi e luoghi credono che vi sono pochi uomini che vivono sempre se sono permessi di farlo, che vi sono uomini e donne che non possono morire? Sappiamo tutti perché scienza ha dimostrato il fatto che sono stati rospi chiusi in mezzo di rocce per migliaia di anni, chiusi in buco così piccolo che ha tenuto lui dentro fin da giovinezza del mondo. Potete dire a me come fakiro indiano può fare morire se stesso e fare seppellire, e dopo sua tomba è sigillata e grano seminato sopra, e il grano è tagliato e raccolto, è seminato e raccolto di nuovo, e poi vengono uomini e tolgono il sigillo intatto, e nella tomba giace fakiro indiano, non morto, ma che si alza e cammina in mezzo di loro come prima. A questo punto io l'ho interrotto. Mi sentivo sbalordito. Aveva riempito la mia mente con il suo elenco di bizzarrie della natura e impossibilità possibili, dando fuoco così alla mia fantasia. Mi è venuta la vaga idea che stesse impartendomi una qualche lezione, come soleva fare un tempo nel suo studio di Amsterdam, ma allora aveva l'abitudine di dirmi la cosa in maniera che io potessi avere sempre in mente l'oggetto di pensiero. Ora, invece, il suo aiuto mi mancava, ma siccome desideravo di seguirlo, gli ho detto: «Professore, concedetemi di essere di nuovo il vostro allievo preferito. Enunciatemi la tesi, in modo che mentre procedete io possa servirmi delle vostre conoscenze. Per il momento la mia mente salta da un punto all'altro come quella di un pazzo e non certo come un uomo equilibrato segue un'idea». Mi sento come un novizio che, brancolando in un pantano nebbioso, salta da un ciuffo d'erba all'altro, sforzandosi alla cieca di procedere senza sapere dove va. «Ecco buona immagine», ha commentato il professore. «Bene, io dirò a voi. La mia tesi è questa. Io voglio che voi credete». «Che io creda che cosa? Che credete in cose che voi non potete? Lasciate che vi spiego. Una volta ho sentito un americano definire fede così: quella che permette noi di credere cose che noi sappiamo essere non vere. Quanto a me, io seguo quell'uomo. Lui vuole dire che noi dobbiamo avere mente aperta e non lasciare che un pezzettino di verità blocca la corsa di una grande verità, come piccolo sasso può fare a vagone ferroviario. Noi prendiamo prima piccola verità. Bene, noi abbiamo essa e valutiamo essa, ma in stesso tempo non dobbiamo permettere che essa si creda tutta la verità dell'universo. Quindi voi volete che io non consenta a certe convinzioni precedenti di pregiudicare la ricettività della mia mente per quanto concerne certi fatti strani. Ho capito bene la vostra lezione? Voi siete sempre il mio discepolo preferito. Vale la pena di insegnare a voi. Adesso che voi avete volontà di comprendere, avete fatto il primo passo verso comprensione. Voi credete dunque che piccoli fori in gole di bambini sono fatti dallo stesso che ha fatto fori in signorina Lucy? Suppongo di sì. Il professore si è alzato e ha detto in tono solenne: «Allora voi sbagliate. Oh, magari fosse così, ma ahimè, è peggio, molto, molto peggio. In nome di Dio, professor Van Helsing, che cosa volete dire?» Con un gesto di disperazione egli si è lasciato cadere su una sedia, ha appoggiato i gomiti sulla tavola e il viso nascosto tra le mani ha detto: «I fori sono stati fatti da signorina Lucy».